Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di una categoria di persone sempre attuale che a me fanno particolare simpatia. Sono coloro che sfidano le convenzioni e in certi casi le regole considerate immutabili e così facendo riescono a cambiare le cose e magari un pizzichino alla volta il mondo intero. A questa categoria appartengono i protagonisti del libro che adesso vi segnalo di Federico Fubini, Noi siamo la rivoluzione, pubblicato da Mondadori, 190 pagine, 17,50 €. L'autore è un giornalista del Corriere della Sera che racconta 7 storie esemplari che riguardano donne e uomini che appunto hanno rotto l'ortodossia. Sono storie contemporanee, da un sovrano che rompe le regole a un ragazzo di Catanzaro, tutte persone che hanno ragionato e deciso di testa propria innescando processi di cambiamento importanti. Facciamoceli descrivere dall'autore. Buongiorno a Federico Fubini. Buongiorno, ciao. Federico Fubini, il suo libro comincia con delle pagine che sono un elogio all'anticonformismo, una virtù che non è mai troppo considerata come tale, soprattutto al giorno d'oggi. Diciamo che se per anticonformismo noi intendiamo dipingersi i capelli di blu e andare in giro con un anello al naso o intorno alle orecchie, sinceramente, come dire, sono neutro, non penso che sia né una virtù né necessariamente un vizio, non mi interessa particolarmente. Quello che mi interessa è l'anticonformismo come lo definiva Keynes. Keynes era un grandissimo lettore di giornali popolari, come oggi potrebbe essere il Daily Mirror, negli anni 30, un'epoca che per certi aspetti ricorda la nostra, di lunga crisi economica, e un giorno trovò in un giornale popolare un concorso di bellezza. In questo concorso di bellezza si presentavano le foto di 100 belle ragazze, i volti, e avrebbe vinto un premio monetario molto importante colui che avesse indovinato la risposta della collettività delle persone e in particolare avesse indovinato le prime 6 classificate secondo le risposte di tutti gli altri. In buona sostanza ogni lettore era un giudice che in qualche modo non era invitato a decidere chi era la più bella per lui, per se stesso, ma cercare di immaginare l'opinione degli altri e tutti, ciascuno cerca di immaginare l'opinione degli altri in una specie di inseguimento circolare dell'opinione media di tutti gli altri. Questo è il conformismo. Keynes era molto interessato a questo perché la dinamica dei mercati finanziari è esattamente la dinamica del concorso di bellezza di quel giornale popolare. Gli investitori cercano sempre di indovinare quello che gli altri investitori pensano, non semplicemente quello che essi stessi hanno deciso. È una dinamica che può avere degli effetti di gregge particolarmente pericolosi. Ora, a me non interessa in questo libro, Noi siamo la rivoluzione, applicarla ai mercati finanziari. A me interessano, e ho cercato di raccontare, personaggi che, se vogliamo, rompono con le regole del concorso di bellezza di Keynes e decidono le proprie priorità di testa propria in vari luoghi del mondo, che possano essere l'Arabia Saudita, il Bhutan, l'Etiopia, ma anche l'Italia del Sud. E in ogni capitolo ho raccontato un personaggio che decide di testa propria. Ecco, di questi personaggi che vanno fuori dal gregge, qual è quello che l'ha impressionata di più? Forse il re del Bhutan, perché il re del Bhutan, a differenza degli altri personaggi di cui ho parlato, è un personaggio che crea una trasformazione, afferma la propria libertà, come gli altri personaggi negli altri capitoli, nelle altre varie parti del mondo, con la grande differenza che lui in Bhutan era alla piramide della struttura sociale, però decide di rovesciare completamente la struttura sociale stessa. Questo è un re che diventa sovrano assoluto, nel senso medievale del termine, all'età di 16 anni, all'inizio degli anni 70, e maturando si rende conto che per rendere il suo paese felice crea questo obiettivo della felicità interna lorda, che oggi poi è diventato peraltro molto di moda anche fuori dal Bhutan con la crisi finanziaria, con la crisi economica, e si rende conto che per questa felicità dei suoi sudditi la popolazione non poteva più essere una popolazione di sudditi ma di cittadini. Dunque sovverte completamente la monarchia assoluta, sovverte la Costituzione, introduce la democrazia, addirittura quando annuncia che il Bhutan sarebbe passato alla democrazia la popolazione è presa dal panico, perché questo è un piccolo paese isolato nell'Himalaya che non ha comunicazioni con il mondo circostante, però lui trascina a forza il suo paese nella modernità e per portare veramente fino in fondo il suo progetto capisce che lui stesso non può più esistere come sovrano, dunque decide di abdicare e sparisce dalla circolazione. Oggi l'ex re del Bhutan vive isolato in una piccola casetta di legno di pino sull'Himalaya, non si fa più vedere in giro. Per la verità, quando sono stato lì, uno dei miei accompagnatori mi ha detto che l'aveva incontrato una domenica pedalando per le strade di montagna, però sostanzialmente conduce una vita monacale buddista di meditazione. Poi per esempio ci sono le donne atee che in Arabia Saudita cercano di modificare i rapporti sociali e di genere che sono così rigidi in quel paese. Questa è una cosa che mi ha molto colpito. Sono andato in Arabia Saudita per raccontare una rivoluzione araba, se vogliamo, ormai di tipo classico, o gli inizi o i germi di una rivoluzione di tipo classico. Mi sono reso conto, avendo scelto in Arabia Saudita, unico caso nel libro, più protagoniste donne e non un solo protagonista o una sola protagonista, che veramente quello che volevano che io raccontassi di loro è in fondo la loro vita sentimentale. Mi ha molto colpito e anche l'epidemia di divorzi che c'è in Arabia Saudita, di cui si sa molto poco, però devo dire che in tutto il periodo che ho passato là non ho trovato una famiglia che non fosse segnata da un divorzio, da più divorzi, perché oramai il conflitto che c'è tra il tradizionalismo delle regole e la modernità dei mezzi di comunicazione come internet, Twitter, eccetera, la contraddizione è talmente lacerante che porta a dei divorzi. Nessuno più veramente crede nel sistema, anche se viene perpetuato. E appunto c'è questo caso di questa ragazza che si è sposata giovanissima e divorziata giovanissima, e uno dei suoi problemi nel matrimonio è che non riusciva a dire a suo marito che lei in realtà non crede in Allah. E noi sappiamo che in Arabia Saudita l'apostasia, l'ateismo è un reato per cui c'è la condanna a morte, ancora una volta come nel Medioevo, e l'ex marito, anche molto tollerante, però non è riuscito ad affrontare questo tabù e il matrimonio è finito. Assieme al libro è uscito un ebook di cui lei è autore, La Cina siamo noi. Ecco, come si collegano questi suoi due reportage? Guarda, l'ultimo capitolo del libro è su Catanzaro e su come la provincia di Catanzaro sia diventata una specie di Bangalore italiana, perché il basso costo del lavoro dovuto alla disoccupazione attrae moltissimi call center, back office delle grandi aziende, sollecito crediti al telefono, tutte le attività che noi associamo con l'India tradizionalmente in Italia si fanno in Calabria molto spesso. Ci siamo resi conto che questo è un fenomeno nuovo per l'Italia, che forse andava esplorato di più, e per questo con l'editore ho deciso di approfondire questi temi facendone un ebook che uscisse contemporaneamente al libro, però un ebook centrato solamente sull'economia del sud. Il capitolo appunto dell'ebook La Cina siamo noi è dedicato a Catanzaro, il secondo è dedicato alla provincia di Napoli in particolare. In provincia di Napoli sono andato a cercare il mondo delle scommesse. Come sappiamo, il mondo delle scommesse è un mondo controverso. La Commissione Antimafia ci dice che molto spesso le scommesse, anche tra virgolette legali, sono gestite da mafia, camorra, eccetera, eccetera. E sono andato in molte sale giochi a vedere quello che succedeva. Sono persone molto povere che giocano, spesso sono donne anziane. Quello che mi ha veramente sorpreso è fare un po' di conti prendendo i numeri dei monopoli dello Stato. Allora, prendendo questi numeri, viene fuori che per esempio in provincia di Napoli, dove il reddito per abitante è di 7.400 euro l'anno, la spesa media annua in giochi d'azzardo per le persone di più di 18 anni è di 1.700 euro, cioè è la prima voce di consumi in base alle statistiche ufficiali in provincia di Napoli, e non solo in provincia di Napoli. La crescita delle scommesse è esponenziale. Sempre parlando della provincia di Napoli, siamo a più 27% anno su anno a gennaio 2012, mentre, come sappiamo, per esempio, persino la spesa in beni alimentari è ai minimi da una quindicina d'anni. C'è qualcosa che non va, sicuramente una grandissima fonte di reddito per lo Stato. Solo come entrate erariali da scommesse 9 miliardi l'anno scorso, 80 miliardi di giro d'affari, una crescita in questo caso davvero cinese, però rischia di diventare una forma di tassazione della povera gente operata di fatto in partnership con la malavita, e questo è sicuramente un problema. Grazie a Federico Fubini, autore di Noi siamo la rivoluzione. Buona domenica. Grazie, buona domenica. Una prova narrativa che ci ripropone un personaggio decisamente insolito è Divorzio alla turca, della scrittrice turca Esma Hanna Aykol, che ha dato vita al personaggio di Kati Ischel, che torna in questo giallo pubblicato da Sellerio, 322 pagine, 14 euro, tradotto da Emanuela Cervini. Anche in questo caso siamo a Istanbul, la città della quale il libro ci dà un nuovo ritratto, sempre ricco di bellissime sfumature. Prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, ricordo che il 23 maggio ricorre il 20° anniversario della strage di Capaci. Allora vi segnalo il libro della sorella di Giovanni Falcone, Maria Falcone, scritto con la giornalista Francesca Barra. Giovanni Falcone, un eroe solo. Il tuo lavoro, il nostro presente, i tuoi sogni, il nostro futuro. È pubblicato da Rizzoli, 210 pagine, 17,50 euro. Questa è una biografia, naturalmente appassionata e partecipe, del magistrato che descrive il suo progressivo isolamento, con una domanda di fondo che aleggia nel libro e che viene qui espressa da un magistrato che era stato molto vicino a Falcone, cioè Loris D'Ambrosio. Mi chiedo, scrive D'Ambrosio, se Giovanni non fu ucciso anche per quello che aveva voluto che scrivessimo nella legge che diede vita alla Direzione Nazionale Antimafia, nella consapevolezza che la mafia costituiva un fenomeno criminale pericoloso per la tenuta stessa dell'ordinamento democratico, una consapevolezza che avevano in pochi. Vi segnalo anche una testimonianza diretta di Falcone nel libro Le ultime parole di Falcone Borsellino, l'altro magistrato che sarebbe stato ucciso pochi giorni dopo, il 19 luglio. Questo libro è curato da Antonella Mascali, pubblicato da Chiare Lettere, 118 pagine, 12,90 euro, e raccoglie alcune pagine con gli ultimi scritti dei due magistrati. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Abbiamo parlato dunque degli anticonformisti e allora continuiamo con due categorie di avventurieri che hanno cambiato il mondo. La prima categoria è quella dei libertini. Attenzione, non mi riferisco a tutti coloro che corrono dietro le sottane, ma vi propongo gli anticonformisti nel pensiero, quelli che hanno rotto i tabù culturali e religiosi nel XVII secolo, dando vita a un'autentica rivoluzione di cui quelle francese e americana sono state soltanto le tappe principali. A questo pensiero sono dedicate due antologie che adesso vi propongo. La prima, curata da Alberto Beniscelli, si intitola Libertini italiani, letteratura e idee tra XVII e XVIII secolo, pubblicato da Rizzoli, 912 pagine, 16,90 euro. La seconda antologia invece si intitola Tutti i piaceri dell'intelletto, antologia di testi libertini francesi del XVIII secolo, ed è curata da Maria Antonietta del Boccio per Dedalo, 330 pagine, 18 euro. Gli italiani e i francesi sono le due facce di una straordinaria avventura intellettuale illustrata nel nostro paese da nomi illustri e meno, che il curatore fa risalire per la verità anche a tempi precedenti all'illuminismo vero e proprio. Per esempio troviamo Paolo Sarpi o Giordano Bruno. Già nel 1631, ricorda il curatore, uno studioso francese notava come l'Italia fosse piena appunto di libertini e di atei e in generale di persone che non credevano in nulla, benché il numero di coloro che hanno iscritto dell'immortalità dell'anima sia quasi infinito. E il libertinismo, cioè appunto la cultura anticonformista come la definisce il curatore, non è per nulla tributaria a quella francese, come dimostra il curatore nella ricca introduzione che ci fa conoscere i protagonisti e i temi di questo pensiero. Troviamo nomi famosi come Ferdinando Galliani, il conte Cagliostro, Casanova, da Ponte, fino a chiudere con alcune pagine di Giacomo Leopardi. Sentite queste righe del conte di Cagliostro che sottolineano la grande modernità e purtroppo la grande attualità di molti temi che avevano sollevato i libertini. Hanno deciso chi io debba essere agli arresti. Qual è il crimine commesso? E quale l'accusa? Chi mi ha denunciato? Dove sono i testimoni che potrebbero deporre contro di me? Sono all'oscuro di tutto. Nel medesimo tempo si desidera che io mi giustifichi, senza darmi ragione su cosa si basi l'accusa. È difficile difendersi da un potere invisibile che sferra colpi. Alle richieste mi si risponde che l'ordinamento criminale detta le sue norme in questi termini. Allora non mi resta che tacere e prostrarmi gemente davanti a una legge tanto dura quanto allarmante, soprattutto per un innocente sotto accusa. A causa di questa circostanza, non posso minimamente supporre la natura del delitto di cui mi si fa carico. Provo ad immaginare. Se mi sarò ingannato, vorrà dire che, almeno, combattendo contro illusorie chimere, avrò reso vigile la parte sana di pubblico in grado poi di discernere tra la messe di libelli ingannevoli fatti circolare contro un uomo sfortunato, libelli distribuiti impunemente mentre egli è ai ferri, minacciato da un duplice gladio, quello della giustizia e quello dell'autorità. E quindi da queste righe potete capire come abbia ragione la curatrice dell'altro volume, Maria Antonietta Del Boccio, quando scrive che il libertinismo è una cosa seria, è una filosofia, un modo di vivere, una questione di responsabilità, talvolta è una cosa addirittura tragica. E qui nella sua antologia troviamo gli autori classici, anche con qualche sorpresa. Per esempio ritroviamo Da Ponte, che sebbene sia italiano e scrivesse per un musicista e abbia scritto soprattutto per un musicista austriaco come Mozart, scrive la curatrice, presenta una categoria assieme allo stesso Mozart, quello dei senza patria, che avevano assimilato lo spirito del tempo ormai sovranazionale e che reca l'inconfondibile impronta dell'esprit francese. Un'altra grande categoria di avventurieri dello spirito e dell'intelletto, ma non solo, è rappresentato dagli esploratori, grandi esploratori, innanzitutto Amerigo Vespucci, di cui il 22 febbraio è caduto il 500° anniversario della morte, che ritroviamo nel libro di Mauro Bonciani, Amerigo Vespucci, il fiorentino che inventò l'America, è pubblicato dalle Lettere, 128 pagine, 14,50 €. In questo libro, ricco anche di illustrazioni, troviamo un personaggio mitico che ha dato appunto il nome a un pezzo di mondo e che diventò forse esploratore per caso, veniva dalla Firenze umanistica, di cui Bonciani tra l'altro ci dà una bella sintesi, e si era trasferito tra il 1491 e il 1492 a Siviglia. Lì assistette al trionfale ritorno di Colombo da quella terra alla quale lui, Vespucci, avrebbe dato poi il suo nome. Si imbarcò lui stesso qualche anno dopo, ma come mercante, e dimostrò sempre, scrive l'autore, un'apertura mentale che mancava ai suoi compagni di avventura, avidi solo di gloria e di denaro. Ma come diede il suo nome all'America? Ce lo spiega a queste righe tratto dal libro che adesso vi vado a presentare. Mai comunque Vespucci avrebbe immaginato quello che sarebbe successo. Nel 1507 a Saint-Dié, in Lorena, il piccolo stampatore Gauthier Lud inizia una riedizione della Cosmografia di Tolomeo. Le ultime e numerose scoperte ne richiedono la revisione, nonché il disegno e l'incisione di nuove carte. Ci si rivolge a un giovane geografo di nome Martin Waldseemüller. A rigor di logica, il territorio scoperto da Colombo dovrebbe essere chiamato Colombia, ma Waldseemüller, che ha letto la lettera di Vespucci detta Mundus Novus, s'entusiasma e il 25 aprile 1507 pubblica un'opera di 52 pagine in cui sono raccolte le mappe delle ultime scoperte e i racconti dei quattro viaggi di Vespucci, presentato come il vero scopritore del nuovo mondo. Cosa che induce il nostro autore a proporre di battezzare il continente con il nome, messo al femminile, del suo scopritore, America. Insomma, una delle più grandi rapine della storia dell'umanità. Queste righe sono invece tratte dal libro Dizionario amoroso degli esploratori dello scrittore francese Michel Lebry, pubblicato dall'Ippocampo, 982 pagine, 25 € e tradotto da Vera Verdiani. L'esplorazione ha sempre affascinato l'autore per il suo carattere non di fuga, ma appunto di rottura. E qui troviamo un vero dizionario, ovviamente non compilativo, ma espressione di una passione, amorosa appunto, che porta l'autore a cercare di comprendere il senso dei personaggi presi in esame. Ci sono anche tanti riferimenti letterari, come il barone di Münchhausen o Melville, di cui l'autore scrive che viaggio e letteratura si sono strettamente associati alla latente esperienza della diserzione, o il nostro Salgari, capace di vivere avventure straordinarie ma solo in sogno. Scrive infatti Lebry: con una tale intensità visse queste avventure in sogno che aveva finito per crederle vere, con una tale intensità che gli bastava prendere in mano la penna perché ne uscisse una ridda di scene, di personaggi, di ambienti favolosi o terrificanti. E a questo punto... Il confettino. Abbiamo parlato in questa trasmissione di pensatori controcorrente, di illuminismo, e allora vi segnalo tre libretti che possono introdurre i più giovani a tre grandi filosofi: Socrate, Cartesio e Kant. Sono libri di Jean-Paul Mongen, il primo intitolato La morte del divino Socrate, illustrato da Jean Lebrun; il secondo Il genio maligno del signor Cartesio, illustrato da François Schoebel; e il terzo La folle giornata del professor Kant, illustrato da Laurent Moreau. Sono tutti tradotti da Cecilia Antolini e pubblicati da ISBN, 12,50 € e hanno tutti fra le 60 e le 70 pagine. Ovviamente non sono trattati di filosofia, ma libretti molto illustrati che presentano attraverso narrazioni accattivanti il pensiero di questi tre giganti del pensiero.